Ateneo. Resta come può, e tu va frugagnandolo, raccoglia di tratta. Sta bene. Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, o prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiat qui, misericordia. Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Atalanti? Eccola. Thank you.